ben ritrovati e benvenuti su Rock FM all'appuntamento, il primo di questa settimana, primo e terzo se seguite la replica con Hard and Heavy, offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano. La voce che state sentendo è quella di Marco Gravelli. Il nostro autore Simone ha preparato parte di questa nostra puntata, la prima parte dedicata alle novità, la seconda troverete la voce femminile, quella di Claudia, che incontra, già fatto circa 20 giorni fa, Tobias Sammet per il progetto Avantage, e parlerà lei con lui di questo terzo lavoro Avantage. Una lunga intervista, molto simpatica, come sempre grazie alla nostra Claudia, suddivisa in due parti, la seconda mezz'ora di questo nostro appuntamento di oggi e la seconda mezz'ora di domani. Nella prima parte, quella attuale, come già citato, tutte le novità, e partiamo in effetti con questo gruppo che uscirà la prossima settimana tramite Napalm Records, album d'esordio per una band scozzese che propone power folk metal, da loro definito pirate metal, che prende spunto dai celebri finlandesi Korkiplani e dai più recenti Turisas, in effetti pirati che sono raffigurati anche sulla copertina di questo loro disco. Non per niente si intitola Captain Morgan's Revenge. Loro si chiamano Alice Storm, nati nel 2004 con il nome di Battle Art, ed in principio era un duo costituito dal cantante tastierista e dal chitarrista. Registrano un EP e all'inizio del 2006 decidono di completare la formazione con altri due musicisti, basso e batteria. A Lineup Ultimata registrano un nuovo EP che gli permette di entrare in una compilation con Blind Guardian, Firewind e Hammerfall. Lo scorso anno hanno cambiato il moniker nell'attuale Alice Storm ed hanno stipulato un contratto con la Napalm Records, che la prossima settimana pubblicherà questo loro album d'esordio. Un album interessante dal titolo Captain Morgan's Revenge, che si compone di 10 brani. Il primo, quello che apre l'album, si intitola Over the Seas. uscita da loro stessi musica, anzi metal dei pirati, questo pirate metal, hanno coniato forse un nuovo genere di musica, gli Alice Storm, che arrivano dalla Scozia e che pubblicheranno questa settimana su etichetta Napalm Records questo Captain Morgan's Revenge. Sarà un concept album sul Capitano Morgan e con tutta la storia dei pirati. Abbiamo ascoltato il brano che apre il lavoro, cioè Over the Seas. Andiamo in America con il secondo album che esce questa settimana per l'ottima band dei Benedictum, che già si erano ben distinti con il loro primo lavoro, Uncreation, con richiami alle heavy metal degli anni 80. Alla voce, ricordiamo, vi è l'avvenente cantante Veronica Freeman, che insieme al chitarrista Pete Wells hanno dato vita dopo lo scioglimento dei Malady, hanno creato appunto questi Benedictum. Grazie all'apporto di Craig Goldie e soprattutto di Jeff Pilson, ex Dokken, riescono ad avere un contratto e a pubblicare il loro album d'esordio nel 2006. Hanno anche partecipato al Gods of Metal dello scorso anno. Questa settimana esce questo nuovo Season of Tragedy. Ci sono 10 tracce con anche una cover, Balls to the Walls, degli Accept. L'album è disponibile anche in una versione limited con un'altra cover, la storica Catch the Rainbow, che è stata portata a successo proprio dai Rainbow. Oggi ve li propongo con Nobody's Victim da Season of Tragedy, Benedictum. Stronger. Nobody Victims dal loro prossimo nuovo album in uscita questa settimana per i Benedictum dagli States. L'album, ricordo, si intitola Season of Tragedy. Vi ho già anticipato che nella seconda parte troveremo Claudia con Tobias Sammet e parleremo del progetto Avantasia sia quest'oggi, la prima parte, sia domani. E la prossima settimana invece avremo un'intervista con Arjen Lucassen. Arjen Lucassen, olandese, che ha legato la sua carriera musicale a tanti progetti, a tanti concept, soprattutto a livello di album. Uno dei tanti progetti, oltre agli Star One, Ambeon e Stream of Passion, sono gli Aerion. E con questo nome, tra poco, alla fine della prossima settimana, pubblicherà un nuovo album che ha un titolo particolare, un numero, un codice forse, boh, ce lo svelerà lui. 01011001, questo è il titolo del lavoro. È un particolare doppio album con tantissimi, come la tradizione vuole, ospiti d'eccezione, tra cui, ve ne cito alcuni: John Land, Ancy Curt dei Blind Guardian, Daniel Gindlow dei Pain of Salvation, Bob Catley dei Magnum, Tom Englund degli Evergrey, Jonas Renske dei Catatonia, Annek ex Guthrie, Simone Simmons degli Epica, Floor Jensen degli After Forever, Ty Tabor dei King's X e Steve Lee dei Gotthard. Questi alcuni degli special guest. Per saperne di più, la prossima settimana trasmetteremo l'intervista insieme ad Arjen Lucassen, che intanto vi propongo in anteprima con questo brano che si intitola Ride the Comet. Hi, this is Arjen Anthony Lucassen from the Aerion Project, and you're listening to Rock FM. Yeah. Immancabile l'appuntamento con le Metal News. Partiamo con gli In Flames. Si intitolerà A Sense of Purpose, il nuovo album per la band svedese, uscita prevista per aprile. L'album sarà anticipato dal singolo The Mirror Truth, che verrà pubblicato il 7 di marzo solo in Europa e conterrà anche 3 tracce che non faranno parte dell'album. Si intitolerà invece Return of the Pride, il nuovo album per la band di Mike Tramp, cioè White Lion. 10 brani, una bonus track per il mercato europeo, uscita prevista per il 14 di marzo su Frontiers Record. In arrivo i Symphony X, che hanno reso noto che la band che li supporterà durante il tour europeo sono i norvegesi Circus Maximus, autori di un ottimo prog metal e il cui ultimo secondo album è uscito lo scorso anno. Le date in Italia, ricordiamo, saranno 2: 25 febbraio al Viper di Firenze e 26 febbraio al Fillmore di Corte Maggiore, provincia di Piacenza. Anche i Megadeth, la band americana di Dave Mustaine, hanno reso noto il nome della band che li accompagnerà per il tour europeo e che li porterà in Italia per 2 date: 4 marzo Alcatraz di Milano, 5 marzo Palasport di Pordenone. Si tratta degli ottimi inglesi Evil, autori di un thrash anni 80 che lo scorso novembre sono usciti con un buon album d'esordio dal titolo Enter the Grave. Parliamo del chitarrista tedesco ex Rudy Pell. Pubblicherà il DVD Live Over Europe il 25 di febbraio. Conterrà l'intero concerto registrato quest'anno presso il Rock Hard Festival in Germania, più un altro bonus DVD con 16 tracce dal vivo filmate in diversi festival, tra i quali il famoso Wacken. Metallium, ad un solo anno dal precedente album, uscirà alla fine di gennaio e febbraio il nuovo settimo album per la power metal band tedesca. Si intitolerà Incubus Chapter 7 e per la seconda volta nella loro storia in copertina non ci sarà il loro emblema, anche il loro portafortuna, cioè Metallian, che ne ha contraddistinto invece i precedenti album. Ci saranno 9 canzoni più un intro e la title track si presenta molto epica, dalla durata di ben 8 minuti. In tema di Metallium, o meglio dire di ex Metallium, parliamo del chitarrista Jack Frost, che aveva già suonato nel loro secondo album, considerato il loro migliore. È uscito da alcune settimane con il settimo album dei suoi Seven Witches. Infatti, a 2 anni di distanza dal precedente Amped, è uscito questo Deadly Sins. Per quanto riguarda la line-up, rimane confermata quella del precedente lavoro con Alan Tecchio alla voce. Ed è proprio da questo nuovo album dei Seven Witches che andiamo a proporre le note di Knowledge. estratto dal nuovo album dei Seven Witches che abbandoniamo per parlare di un progetto particolarissimo che verrà pubblicato alla fine della prossima settimana. Ne avevamo anticipato con le news, nelle meta news di questa band un po' di tempo fa. Si chiamano Bass Invaders, quindi bass nel senso che c'è il basso che è ben presente, perché è un progetto del bassista degli Halloween, Marcus Grosskopf. Uscirà la prossima settimana su Frontiers Record. La particolarità è che c'è basso, batteria, voce, non ci sono assolutamente chitarre, proprio vero. Ci sono 14 brani, una delle quali è Eagle Fly Free, cover degli Halloween. Gli special guest sono alla batteria Stefan Arnold dei Gravedigger e Andre Higgers dei Rage, Axis e Silent Force. Andiamo alla voce: P.V. Wagner dei Rage, Tom Hanger Reaper dei Sodom, Schmier dei Destruction, Apollo Papatanasio dei Firewind. Il basso, oltre naturalmente a Marcus, troviamo Dennis Ward dei Pink Cream 69, Dirk Schlachter dei Gamma Ray, Billy Sheehan, che non ha bisogno di presentazioni, Marco Mendoza dei Thin Lizzy, Joy Vera, Faith Warning ed Ex Armored Saint e James Becker dei Gravedigger. Il pezzo che vi presento, l'album si intitola Hell Bass Beaters, il pezzo è Bowling Blood. Purtroppo il tempo stringe, avremo modo sicuramente di ripresentare altri brani da questo progetto particolare per i Bass Invaders, creato dal bassista Marcus degli Halloween. Era il pezzo Bowling Blood. E chiudiamo con una band molto brava, gruppo tedesco del bravissimo cantante Tommy Hart dei Fair Warning, che sarà a Milano il 18 di gennaio presso il Legend 54 a Milano. Il 18 saranno al Lucille di Verona, il 19 al Siddhartha di Prato, il 20 saranno a Bologna al Sottotetto Sound Club. Se avete voglia, andateli a vedere, perché sono un'ottima band di rock, hard rock, southern rock. Si chiamano Soul Doctor e questa è la prima volta, penso, che vengono in Italia. Un tour di 4 date, come dicevo. È da poco uscito questo loro album Blood Runs Cold, dal quale ascoltiamo il brano che dà il titolo all'album stesso. E poi vi rimando alla seconda parte di Hard & Heavy con ospite Tobias Sammet, Avantasia, insieme a Claudia. A domani, ciao! Feel good. takes my breath away. Take it slow and steady, that for today it's a 4-minute warning, not a sometime blues. It's like the ravens of a madman coming down to you. And while you're looking, I know you know the score. One way or another, the devil's door. Hell, no way of knowing. We've seen your news. I got a crazy little dream coming true, yeah. Quicker than the speed of light, this will be my dancing days. Think you've won the battle, but you've lost the war. See, your time is taken away. I tell you, blood runs cold. I sold my soul for some rock and roll. Good as gold. The middle of the night, and take a shot and say your prayers when the blood runs cold. Ready or not, get your fortune told. Now my blood runs cold. Hey, vanity, got what I need to make a poor man bleed. In the hood, back in the USA, hey, we made a hot deal, my lucky day. As simple as a black and white, this point of view, sticking your neck out. Have a ball, I'm the one for you. Yeah, you looking, what are you looking for? Hey, oh little darling, you want to know. Hell, now down and dirty, anything for you. I gotta, I'm making honest woman of you. Woman, you are way off life. Take it from a man who knows. We'll be right back. Abbiamo riascoltato Lost in Space per una band fatta da super mega musicisti, dei mostri sacri praticamente della scena metal, e a condurre tutti questi musicisti come un vero leader, come un capo, come assolutamente il numero uno di questa situazione c'è un personaggio che noi adoriamo qui a Rock FM, in particolar modo io, visto che è un nostro grandissimo amico. E allora diamo il bentornato, per parlare di questa avantage, per parlare del nuovo album, al buon Tobias. Hi, welcome back. Bello, bello, bello. Finally. Bella, bella, bella. Hello. I will say nice things. Don't worry. I knew. I mean, I felt it in the melody of your words. Oh, okay. That was nice. Yeah. Because I said all these big musicians, you know, guided by a leader. Yeah. Which is you. Yeah, that's me. Yes, you I'm are the leader. Captain. Yes, you're the captain. Yeah. Well, thank you. Welcome back. So, how are you? I'm fine, thank you. A lot of work these days, a lot of interviews to do. Mm-hmm. And Some are nice. Yeah, some are very, very nice, and some are just okay. But you know, the sum of doing interviews, it's a little bit like, you know, a promotional tour is a little bit like going to the dentist. Yeah. But that's what I have to do. I have to do it. I have to sell my record. It's a dirty job, but someone's got to do it. Someone's got to do it. Here I am. No, here it is very beautiful. I said that. Come on, but it's nice. You have the chance to travel and meet nice people and talk about new music, so it's not that bad. It's not that bad, but you don't see anything. I mean, you travel basically from airports to hotels and back. So that's my traveling. And sleeping on the airplane, because I don't catch sleep during the nights in the hotels. I mean, why? What are you doing during the night instead of sleeping? Scusa, eh? During interviews. In the night? Yeah, they go... Pinocchio, bello! Pinocchio, I know Pinocchio. Pinocchio. Sorry, why are you doing interviews during the night? No, just, you know... È vero? Fa le interviste di notte? What? No, I'm just, you know, because I'm talking so much that, you know, we have a delay in our schedule every day, and so it lasts very long into the night. And then I have dinner... And then I watch the news on TV and then I go to bed. So sounds so old. Yeah, I'm getting old. You just turned 30. Yeah, I know. Happy birthday. Thank you very much. It's just about 3 months ago. No, it's not in November. Yeah, it is in November, which is 3 months ago. All right. Ah, sì, è vero. Because we're doing this interview live. Yeah, it's... What did you get for Christmas? Oh, for Christmas? Oh, so many things. It was so nice. Oh, Christmas was so beautiful this year, 2000... No, last year, 2007. Yeah. Yeah, last year, exactly. Yeah. Ah, so, è vero. Allora, si sta parlando... È vero, questa intervista in diretta. Noi siamo nel mese di gennaio. È per quello che giustamente abbiamo parlato anche di quello che abbiamo fatto a Natale. Nel 2007 il buon Tobias ha fatto un bel tour promozionale, ovviamente per parlare del nuovo album, e dice un sacco di sbattimenti, insomma non hai tempo per far niente, sei in una città diversa ogni giorno, dormi sull'aeroplano, anche perché dice io sono uno che parla tanto e quindi finisco le interviste sempre in ritardo per la gioia comunque della mia casa discografica, e quindi insomma si lavora, però giustamente è quello che devo fare per promuovere il nuovo album, che uscirà il 25 gennaio e si intitola Scarecrow. Thanks for making such an easy title to pronunciate, eh? Scarecrow. Scarecrow. I had to rehearse at home for Scarecrow. Scarecrow. Scarecrow. Scarecrow. Scarecrow. Everybody go Scarecrow. Scarecrow. Questo è il titolo del nuovo album. Io ho dovuto fare un paio di prove a casa per riuscire a pronunciarlo, perché ogni tanto mi si incastra un po' su tutto. E allora, ovviamente, ancora una volta si parla di tantissimi musicisti che hanno fatto del parte del progetto. Prima si scherzava, però è vero. Tobias è un po' il capitano di questa situazione ed è lui che guida, insomma, che ancora una volta ha curato tutti questi musicisti. Ma chi sono questi musicisti? Ovviamente facciamo qualche nome. Absolutely. No, I was saying the best thing of the advantage, I think, is that you have all these musicians with you, and of course we were joking about that before, but you are really the man who guided and who did everything. So who are the musicians that are involved this time, and how do you usually choose someone to work with? Oh, well, I gotta be thankful for the people who agree on working with me, so I'm at first very thankful for having those people accept my invitation and working with me. And basically, you know, the basic lineup is Sasha Pett on rhythm and some lead guitars. Sasha Pett, okay. Now I repeat the names because then I will forget. So okay, then and Eric Singer. Eric Singer on drums. Eric Singer, which is Eric Singer. So yeah, absolutely. It's not anyone else. No, I know. Yeah, you're absolutely right, Eric Singer. But Eric Singer is a drummer. Yeah, I've never met a singer by the name of Eric Drummer or something, which is quite weird. Anyway, and then, well, we had other, who else did we have? Oh, yeah, we had Michael Kiske, of course, on vocals. And I've worked with Michael Kiske before, and I've always worked with Michael. This is the third time. Yeah, on Avantasia, on both Avantasia records, the first ones, and then on an Edgar EP as well, on the Superheroes EP. Because he said that he was going to leave metal, so how did you convince him? Well, he did, but he doesn't. Because you're so nice. How can you say no to Tobias? That's the thing, you know. I'm like a puppy dog. You know, everybody wants to play with me. But you know, actually, it's true, because as I was telling you, I was talking to Kai Hansen last week, and every time I say your name, they're like, "Oh my God, he's so fun. He's so nice." So I mean, of course, there is like a record, there is a deal to work with people, it's business as well, but with you it's also fun, so I guess these people are also having a good time. I mean, yeah, but they are all nice people, and it's great to work with friends and with people you can joke with and people you can have a good time with. I mean, we have one thing in common, all those people. We got into this business. You're German. yeah. Eric Singer. And especially Eric Singer is from Dortmund, no? No, but honestly speaking, he's got German ancestors. I think his father and his mother were German. Really? Yeah, his father at least. His mother I'm not so sure about, but he's half German. But anyway, it's just we got one thing in common. We got into this business because we wanted to have fun. Mm-hmm. And that reflects, I think, in the way we treat each other, I think. And, well, who else is in the album? Kai Hansen, yeah, for example. Henjo Richter is there. It's Jorn Lande and Roy Kahn from Camelot and Alice Cooper, Rudolf Schenker. Did I forget anyone? Amanda Somerville. A lot of people. Yeah. And not all Germans, but all funny. Most of them funny, yeah. Allora, ovviamente non c'è bisogno di tradurre tutti i nomi che hanno fatto, perché si parla di Kai Hansen, Michael Kiske, Alice Cooper, Sasha Pett, poi c'è che fa parte comunque della formazione insieme al buon Eric Singer, che ha la batteria, insomma veramente un sacco di ospiti. La cosa dice che abbiamo in comune, soprattutto ad esempio perché Michael Kiske ai tempi ha detto basta, io abbandono il metal, e gli ho detto quindi come fatto a convincerlo, anche perché è la terza volta che collaborano, non solo per il progetto Avantasia ma anche per quanto riguarda l'EP degli Edguy. E dice la cosa che abbiamo in comune è che tutti abbiamo iniziato perché volevamo divertirci, e a parte il fatto ovviamente di suonare tutto, però la cosa principale era quella di star bene e di divertirci, appunto, e quindi insomma ci siamo riuniti ed è nato proprio così questa super mega band, ed è proprio con questo modo che abbiamo lavorato. How was it with Alice Cooper? Actually, with Alice Cooper, it's like I don't know what Alice Cooper really is like, because Alice Cooper has recorded in Los Angeles. And yeah, because I wanted to ask you as well, how did you do with all these guys, like in your studio, or someone sent some of them came to the studio in Wolfsburg in Germany. For example, I went to Wolverhampton in England to work with Bob Catley. Mm-hmm. Oh, we forgot about Bob Catley. Bob Catley is there as well. So many people, you know. Write I even forget. Yeah, I forget the names. No, but with Alice Cooper, he was recording not in his own studio, but in the studio of his bass player, and it was just. I think I wouldn't have got Alice Cooper to participate in the album if Eric Singer wouldn't have been the drummer, because Eric asked Alice if he would want to participate in an album of a friend of Eric, which was I in that case. And so I thought that you maybe chose him because you're an Alice Cooper fan, or I asked him because I'm an Alice Cooper fan, but you know, I think that wouldn't have made a difference to Alice Cooper if Eric wasn't involved, you know. He would have said, oh, another fan of Alice Cooper who wants to work with me, you know. So in this case it was Eric who could convince Alice to do it. Mm-hmm. But of course I'm an Alice Cooper fan. I was 11 or 10 years no how old was I I was pretty young, actually, when I was listening to it. Thank you very much. You're still very young, too. Okay, you remember that every interview we have to say that to each other. Yeah, No, but Alice Cooper is—he's not very young. What was I about to say? Because you are an Alice Cooper fan, that you were listening to him when you were young. Yeah, to the Trash album. It was one of my favorite albums of all times. So and it still is. So it was an honor to work with a rock icon like Alice Cooper. Mm-hmm. And what did you do with him? I mean, you sent him like music, and he sang on that, or yeah. I mean, I sent him the song, and I sent the song with pilot vocals, with a vocal, you know, a vocal track that where he could hear what I had in mind. Mm-hmm. And he basically took over and took it and just sang his version of it. Wow. That's so you never met him? Not yet, no. I think everybody of Edguy has met him, because we were playing some festival together, and I think he was there, that's what Felix just told me the other day, our drummer. He was there coming to our dressing room and saying, "Hi, I'm Alice Cooper, and nice." And he said, you. "No, you don't have a pass, please, no." No, I was not there. I was probably doing some interview at that time. During the show, you were hanging around, like, I know what you were doing after and before the shows. Probably I was just... No, I was just probably doing work. And the others were, you know, saying hi to Alice Cooper. And I was thinking about flying over to England, because Alice Cooper was playing in England 3 weeks ago. But there's so much work right now, I could not do it. Next time he's in England. Allora, abbiamo parlato un po' delle collaborazioni. Ho chiesto, quella che mi incuriosiva maggiormente era quella con Alice Cooper. Ho detto, ma com'è successa? Lui diceva, guarda, sicuramente ha aiutato tantissimo il fatto che alla batteria adesso c'è Eric Singer, perché dice, se non avesse messo lui una buona parola, sicuramente non sarei riuscito ad agganciare, no, al buon Alice Cooper. Dice, sono un suo grandissimo fan, lo seguo da quando avevo 10-11 anni, e quindi senza la buona parola di Eric Singer non so se lui avesse detto di sì, visto che insomma sicuramente ha molte richieste di collaborazioni. Non si sono incontrati, nel senso gli ho chiesto come è stato lavorare insieme. Lui dice non lo so, visto che lui, Tobias, ha mandato una canzone ad Alice Cooper con bene o male le tracce vocali che aveva in mente, e lui ha rispedito poi questa canzone a Tobias, cantata e interpretata appunto da Alice Cooper. Dice, ovviamente per noi è stato un grandissimo onore. Mi ricordo che anni fa, dice, in occasione di un concerto degli Edguy, era venuto nel nostro camerino, si era presentato tutti. Ovviamente io in quel momento non c'ero, perché stavo facendo delle interviste, quindi non ho potuto incontrarlo. Qualche settimana fa si esibiva in Inghilterra, però purtroppo insomma non ci sono potuto andare. Sono stato anche fortunato, visto che ho beccato un periodo in cui Alice Cooper era in studio, visto che sta registrando il tutto nello studio del suo bassista, e quindi il tutto insomma è andato molto molto bene. Working with him was like working with the other musicians, or of course some of them were in studio, no? Yeah, of course, Jorn Lande was in the studio, Olli Hartmann, we did the backing vocals in the studio. I think the lead track he did in his own studio, but it was, you know, we Amanda Somerville was in the studio. Like I said, I was over in England to work with Bob Catley in his studio, but I was there. So basically there was no rule, you know. Some couldn't come, some didn't, some did it in their own studios, but you know, if it was possible, I got the people to the studio in Germany. But with Alice Cooper, I mean, it's not as far to go to LA from Phoenix than to go to Germany, and I don't know if he would have liked going to Germany just to sing that song, you know. Yeah. But again, how did it happen? You wrote the songs and you asked these people to sing for you, to play with you. And what did it happen, for example, that you that they changed something in their song, or you, I don't know, you didn't like the way they sang or they played? So was it like a sort of collaboration, or? No. I mean, what we were basically, I was satisfied with everything they did, and some people, for example, like Jorn, I was there when Jorn did his track. Jorn Lande. Sorry, yeah, we're in Italy to talk about Avantasia. Yeah, Avantasia, Jorn Lande. In Germany they say Avantasia as well. Really? Yeah, some people do. Yeah. Avantasia sounds more rock and roll. Yeah. Well, it's no, Jorn Lande was he was in the studio, and he turned everything upside down to sing it his way, which was good, you know. So if anybody thought, you know, he had better ideas, of course, you know, I don't invite those people, because I want them to reproduce what I'm doing, you know, exactly as I had done it. They are so experienced, that's why I asked those people. To bring something from their own. Yeah, because, you know, I wanted to have characteristic, you know, vocalists and characteristic musicians there to just to get what they have to offer. And, you know, of course I make up my mind in advance what they would sing like. And some people said, okay, that's exactly the way I want to do it. Mm-hmm. But, you know, if they had better suggestions in case, for example, like in case of Jorn. Jorn. It was okay. With Jorn. No female singers. Oh, yeah. Amanda Somerville. Ah, okay. She's very female. Oh, okay. I mean, I haven't checked, but I guess, you know. Ah, okay. That's what it says in her passport. Okay. But, you know, passports and ID sometimes they don't... Yeah. Okay, but why just one? I mean, now there are so many good female singers. Yeah, but like, you know, it's like, are you? Yeah, okay, next time you're gonna sing on the album. Yeah. You're a singer. No. No? Or no. You should become a singer. But I look good. Yeah. That's okay. That's the only that's thing. That's very good on that's record. That's why I'm a singer, right? It's not because I can sing, it's just because I'm so damn good looking. No, it's. I think, you know, it's. You know, if you take the percentage of female vocalists in relation to how many vocalists are around, I think it's not very much. Mm. So, what can I say? I'm a chauvinistic asshole. No, because, you know, I was thinking, because I don't know when I was doing my radio show and I played like five songs were by females. I was like, wow, which was not so common like some years ago. Yeah, well, there is a movement, but that doesn't necessarily mean that I really like that movement. I mean, okay. There is good things. I really like the last Nightwish album. I like it. You like the new singer? Yeah, very much. Have you heard the new Tarja Turunen album? Tarja Turunen. I just heard one song and it's not my cup of tea, but it's good. Mm-hmm. Great voices. Yeah, now it's very trendy, you know, to have all these soprano. Yeah, that's what I don't like that much because it sounds like, you know, I never liked opera for that reason. Oh. I never liked, you know, I don't like the men. I don't like that as well. I didn't like Pavarotti. Pavarotti. God bless him, but, you know, I didn't like that kind of voice so much. Okay. Va bene. I forgive you. Yeah, well, allora, si parlava abbiamo parlato ad esempio della collaborazione con Alice Cooper, che non è avvenuta in studio visto che lui stava tanto lontano. Gli altri artisti, ad esempio Jorn Lande, dice lui è stato in studio con me, ha stravolto tutta la canzone, dice, anche perché io ovviamente sono partito con le tracce che avevo in mente cosa far fare a tutti i diversi artisti, però ovviamente ho chiesto anche loro di non seguire cioè proprio segno per segno quello che avevo fatto io, anche perché è bello che poi ognuno porti del proprio in studio, e dice per questo anche ci siamo divertiti un sacco, a parte appunto, diceva ad esempio il buon Jorn ha stravolto tutto per poter cantare nella sua maniera e quindi insomma, però dice ho cercato, io spesso volentieri dice ero a Londra a lavorare con Bob Catley, però quando potevo ero in studio in Germania proprio per collaborare con tutti gli altri artisti che a differenza appunto di Alice Cooper sono stati presenti in studio per il nuovo album. E poi gli ho chiesto ma come mai non ci sono voci femminili, e dice no, una ce n'è, Amanda Somerville, appunto, è l'unica artista femminile presente in questo album. Gli ho detto, ma scusa, ultimamente ce ne sono veramente un sacco, perché non le fai cantare? Lui dice, ma perché adesso la tendenza è quella con tutti questi mezzi soprani, una cosa quell'altra, dice, non è proprio il mio gusto, brave, per carità, molto belle, mi piace ad esempio un nuovo album dei Nightwish, però, insomma, non mi fa impazzire appunto l'opera e tutto questo genere, sicuramente, però dice, loro avranno delle voci molto belle. We're going to listen to another song, ok? Ok. Ok, that's a good idea. Ok, abbiamo ascoltato Lost in Space, vi ricordo The Scarecrow. Questo è il titolo del nuovo album degli Avantasia, uscirà il 25 gennaio, e ci ascoltiamo Shelter from the Rain.